edizione. E bentornati ancora in diretta con Radio 24, da Anna Migliorati ancora, buona giornata, ben svegliati con le notizie del mattino con prima edizione. Allora, come nostra abitudine, subito gli aggiornamenti. Nel frattempo sono arrivati dalle agenzie, almeno 7 persone sono state uccise da una potente esplosione a Karachi, metropoli sud del Pakistan, così le notizie che arrivano in questi minuti. La deflagrazione sarebbe avvenuta davanti a una stazione di polizia, naturalmente vi daremo aggiornamenti se ci saranno nel corso della nostra diretta fino alle 7. Ma prima diamo uno sguardo a quelli che sono i giornali che trovate questa mattina, che troverete all'apertura delle edicole questa mattina. Apertura dei quotidiani italiani, tutta dedicata al dopo Venezia, alla festa dei popoli padani della Lega con Bossi che lancia la secessione. Apertura pressoché unanime dei quotidiani. A cominciare, cominciamo dal Corriere della Sera, la prima pagina. Bossi Alfano avanti da soli, la Lega rilancia sulla secessione e parla di referendum. Da Bossi e Alfano ancora un segnale preciso, la Lega rilancia il referendum sulla secessione, il PDL frena sull'UDC, inchiesta di Bari, si delinea la rete politica di Tarantini, così il Corriere della Sera, che pone l'attenzione su un particolare di tutta questa vicenda. Finmeccanica, il colosso sotto assedio. Paolo Pozzese dà le dimissioni da direttore commerciale a seguito delle ipotesi di corruzione internazionale per le commesse con l'ausilio di Walter Lavitola. Le inchieste di Bari stanno minando la reputazione di Finmeccanica. A centropagina un'intervista del Corriere della Sera all'ex presidente europeo Jacques Delors. Euro messo a rischio da Merkel e Sarkozy. La moneta unica è minacciata e bisogna stare molto attenti, non bisogna permettere che la Grecia esca dall'euro, così dice Delors nell'intervista al Corriere della Sera. Le speculazioni, dice, non si fermerebbe, toccherebbero all'Italia e alla Spagna. E poi a piede pagina del Corriere della Sera, altro titolo, si sono premiati per i rifiuti, la storia viene da Napoli, 5.000 euro in più al mese per 13 dirigenti, una gratifica a titolo di riconoscimento per il lavoro svolto, mentre 8 mesi fa Napoli era alle prese con uno dei periodi più difficili dell'emergenza rifiuti, bonifiche che sono andate a 13 dirigenti della Napoli Servizi, azienda che si occupa del decoro urbano. La Repubblica, anche qui grosso modo stessa apertura, braccio di ferro PM Berlusconi, Alfano blinda il Premier, l'accento è posto su un altro aspetto, piuttosto della crisi, meglio la secessione. Ilvio Damanti, il mito che mobilita la Lega e le dà identità è tornato alla ribalda. Taglio centrale dedicato per Repubblica, le notizie che arrivano dall'estero, Obama tasse e rischi per risanare i conti, il presidente Obama, l'abbiamo detto anche noi, proporrà oggi una nuova tassa per risanare i conti che toccherà soprattutto le classi alte. Poi ancora Strauss-Kahn, nessuna violenza ma non mi candido all'Eliseo, ieri sera ha parlato alla TV francese l'ex presidente del Fondo Monetario Internazionale, poi a Berlino vince l'SPD, nuova sconfitta della Merkel, ma arriva soprattutto il partito dei pirati della rete. La Stampa, Bossi rilancia la secessione, anche qui un referendum per la Padania, il reportage parla di Lega, un mondo immaginario, a firma di Michele Brambilla. Anche qui Strauss-Kahn in prima pagina, il Messaggero, Berlusconi PM braccio di ferro, Alfano dice però no alle larghe intese. Taglio centrale dedicato ad un altro aspetto, ecco tutti gli effetti della manovra statali, stretta da 2 miliardi, tagli su contratti, liquidazione e pensioni, e anche Bonanni ora minaccia lo sciopero, così il Messaggero. Il Sole 24 Ore del lunedì, il fisco riapre il dossier casa, dall'anticipo dell'imposta unica sugli immobili al prelievo sui maxi patrimoni, le ipotesi sul tavolo del governo, questo se le correzioni ancora non dovessero bastare, così scrive il Sole 24 Ore. È lunedì, uno sguardo anche alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, dedicata alla notte del San Paolo, San Paolo in festa, notte da sogno, Cavani Matadoro di Napoli, l'1-0 di Aquilani, l'U del Milan che poi subisce la tripletta dello scatenato uruguaiano ed è festa al San Paolo, così la Gazzetta dello Sport. Ma uno sguardo lo diamo anche alle notizie su cui puntano invece questa mattina gli altri, non noi, quindi i siti stranieri. E allora, dicevamo, anche da noi è stata abbastanza attenzione quel che è successo in Germania, dove si è votato. Allora, il Der Spiegel questa mattina: prove di coalizione a Berlino, nuova sconfitta per Angela Merkel, ma soprattutto sui siti tedeschi si punta a questa nuova realtà, il Piratenpartei, cioè il Partito dei Pirati, un gruppo giovanile nato come movimento per la libertà su internet e che invece si è imposto, e ora anche la cancelliera Angela Merkel dovrà farci i conti. Elezioni esperimento, scrive Der Spiegel, dopo il risultato di questa tornata non è più possibile escludere un voto che metta in discussione la leadership di Angela Merkel. E poi in Francia, perché dicevamo ieri sera ha parlato alla TV francese Dominique Strauss-Kahn dopo la vicenda, la brutta vicenda di ritorno da New York, le accuse della cameriera del Sofitel e poi l'essere stato scagionato, è tornato, ha parlato ieri. E allora Le Monde, Dominique Strauss-Kahn, così il sito di Le Monde, riconosce un fallimento morale. Dominique Strauss-Kahn, scrive Le Monde, ha ammesso per la prima volta che avrebbe voluto essere un candidato alle prossime presidenziali francesi. Penso che la vittoria della sinistra sia necessaria, ma ora tutto questo non è più possibile. Le Figaro è ancora più duro. Oltre a riportare quel che ha detto Dominique Strauss-Kahn, scrive: nella testa dei francesi la reputazione di Dominique Strauss-Kahn non è stata ripulita. Libération, il titolo di apertura: ho perso tutto per una leggerezza. E scrive ancora: nessuno però crede al suo esercizio di contrizione. Libération affida addirittura uno psicologo l'analisi dell'impatto delle parole di Dominique Strauss-Kahn sui francesi. E allora proviamo a sentirle anche noi queste parole di Dominique Strauss-Kahn ieri sera. Ce qui s'est passé ne comprend ni violence. Sentitelo, inappropriato e immorale, così Dominique Strauss-Kahn ha definito in TV il rapporto sessuale che ebbe appunto con la cameriera del Sofitel, episodio, ricorderete, che comportò l'accusa di stupro. Queste sono le sue parole, l'intervista esclusiva su primo canale francese. Ha riconosciuto di aver mancato l'appuntamento con i francesi che avevano posto in lui la speranza di cambiamento. Qualcuno gli hanno anche chiesto di una trappola, lui ha risposto: potrebbe essere una cospirazione, vedremo. E allora ancora i giornali stranieri, dicevamo attenzione puntata su tutto questo. Wall Street Journal in realtà ci dedica solo un piccolo titoletto: un fallimento morale, l'attenzione è puntata su altro, ancora sui conti economici, la Grecia cerca ulteriori tagli. New York Times, dove pure la vicenda si è svolta, anche qui si pensa ad altro, si pensa al piano di Obama, per togliere il deficit costerà 3 trilioni di dollari, e questo è il punto su cui c'è maggiore attenzione. Vi segnalo però una chicca, perché sul New York Times si parla anche dell'Italia. Frank Bruni scrive un articolo in cui dice: in Italia ci sono 945 membri attivi del Parlamento contro i 535 del Congresso americano, e così ci bacchetta: il Parlamento italiano è più grasso di una coscia di prosciutto, con un linguaggio abbastanza tipico, diciamo così, degli americani quando devono dare giudizi politici su altri paesi. Così lo sguardo ai giornali e siti esteri questa mattina. Però abbiamo anche un'altra novità per prima edizione, un primo ospite a quest'ora, un ospite un po' particolare, perché giochiamo un po' in casa, perché vi ricordo ancora una volta che anche Radio 24 partecipa alla 63esima edizione di Pre-Italia, il premio internazionale per programmi di radio, televisione e web, che si è aperto proprio ieri sera a Torino. Partecipano non solo media italiani ma molti media internazionali, c'è anche Radio 24, unica emittente radiofonica italiana oltre alla RAI ad essere presente. Allora abbiamo buttato giù dal letto subito questa mattina per raccontarcelo il caporedattore di Radio 24, Alessandra Scaglioni. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Questa mattina non è qui con noi perché è a Torino. Dicevamo poco fa anche Radio 24 tra i candidati a Pre-Italia. Alessandra, ma cos'è questo Pre-Italia? Raccontiamolo. Dunque, questo PRI è un premio internazionale per programmi della radio, della TV e del web. È un PRI molto, molto antico, con una grande storia. È giunta alla 63esima edizione, quindi è nato 63 anni fa, e dall'anno scorso si tiene come sede fissa a Torino. ci sono programmi che arrivano da tutto il mondo, da 5 continenti, di tutti i generi, vanno dai reportage alla drammatizzazione, ai programmi musicali, e nelle diverse categorie poi c'è una giuria internazionale che sceglie il programma vincitore. E ci siamo anche noi. E ci siamo anche noi. Noi ci siamo con 3 produzioni, con 2 reportage, uno di Giampaolo Musumeci sul Congo, sulla guerra in Congo, uno di Gigi Donaelli sulle migrazioni e la globalizzazione, storie di donne africane che trovano la loro strada, e poi abbiamo una puntata speciale di Chiedo Asilo, che è la storia di Pollicino, una favola diciamo molto speciale di un pollicino che in realtà è un immigrato, di Capodrago dell'Istituto Barlume. Prima edizione. E alle 6.35 con prima edizione è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento con la cronaca su Radio 24, le storie che non avete sentito altrove e che ci raccontano l'Italia in controluce. Prosegue il viaggio d'Italia in controluce tra i partiti per capire come stanno, se sono in salute e qual è il loro rapporto con i cittadini e gli elettori. Oggi ci occupiamo dell'Italia dei Valori, il partito guidato da Antonio Di Pietro, partito legalitario, giustizialista, tradizionalmente barricadero contro Berlusconi e la sua maggioranza, ultimamente un partito più dialogante, un partito però dove non sono mancate le divisioni e le polemiche tra il suo leader Di Pietro e alcuni altri esponenti come Pancio Pardi e Luigi De Magistris, oggi sindaco di Napoli, partito che anche alle ultime elezioni ha selezionato un personale politico non sempre fedele e affidabile. Basta pensare alla vicenda di Scilipoti, passato al sostegno del governo. Le interviste ai militanti dell'Italia dei Valori sono di Barbara D'Amico. La battaglia che fa Di Pietro è la battaglia più che legittima e giusta, anzi, sul discorso della battaglia a questo governo io sono d'accordo al 100% e anzi anche con mezzi più drastici, anche ancora diciamo più pesanti. Dov'è che qui c'è un qualche divergenza sulle strategie, insomma, questo partito adesso si sta organizzando, insomma, deve capire che direzione prendere, quanto a sinistra, come a sinistra e via dicendo. Sono queste le questioni politiche da affinare. Quello di Scilipoti è un autogol terribile, insomma. Scilipoti è un equivoco, Scilipoti è un errore. Chi si è preso la responsabilità di candidarlo nel mezzo del genere senza informarsi di come era, insomma, veramente andrebbe, insomma, queste sono cose da non ripetere. All'interno del nostro partito, certo, ci sono delle divisioni che però speriamo, anche se con difficoltà, di risolvere bene. Sono sicuramente più problemi sempre legati alle persone, ma non al partito. Il partito regge bene. All'interno noi stiamo veramente cercando di crescere a livello democratico, a livello di programma, fare delle assemblee, condividere dei programmi. Accanto alla figura di Di Pietro c'è però anche tutta la dirigenza, la base che si muove per dire la sua. Poi non è così facile coagulare e far sì che l'Italia dei Valori sia espressione di entrambe le parti. Ogni volta che si ha una crescita, un momento evolutivo, e si acquista anche una forza e un'immagine esterna ancora più vivida, ci possono essere dei momenti di tensione. Ma di mettere nel campo del fisiologico e non dello strutturale, in una situazione comunque si evolve verso la crescita. Ed è tutto anche per questa puntata. Scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata. Così, dunque, Italia in controluce, il racconto l'avete sentito di Alessio Maurizi, che fa il punto sull'Italia dei Valori. Da aggiungere però c'è l'ultima chicca, perché Di Pietro ha candidato il figlio in Molise, il figlio Cristiano, in lista alle regionali, e a Termoli sono scattate le dimissioni di massa con l'Italia dei Valori in rivolta, che parla di un Di Pietro familista. Questa l'ultima, diciamo così, brutta avventura per Di Pietro all'interno del suo partito. partito. Ma nel fine settimana restiamo allora nell'ambito della politica. Dicevamo, le aperture questa mattina di tutti i quotidiani sono dedicate al braccio di ferro tra Berlusconi e PM, e al braccio di ferro anche tra Bossi e Berlusconi, perché con la festa dei popoli a Venezia Bossi ha pensato bene di rilanciare l'idea della secessione. Allora io saluto alle 6:39 del mattino, sempre con noi, Stefano Folli del Sole 24 Ore. Buongiorno. Eccoci. A quest'ora presto per discutere già di questi temi che però domineranno sicuramente la giornata di oggi. E allora io comincio subito lanciandoti il tema che lancia questa mattina Repubblica, il commento di Ilvo Diamanti: piuttosto della crisi, meglio la secessione. In una situazione come questa Bossi è andato a ripescare il mito che mobilita e fornisce identità alla Lega e ai suoi militanti. Sei d'accordo? Abbastanza. Una volta si chiamava benaltrismo, quando nel vecchio Partito Comunista, quando si voleva evitare un problema spinoso a breve scadenza, si diceva che la questione era ben altra, bisogna affrontare ben altre questioni. Ecco, direi che Bossi, naturalmente tutto questo avviene in un modo abbastanza farsesco, no? Perché la storia prima è una tragedia e poi una farsa. Questa volta il benaltrismo si presenta sotto forma un po' di farsa. Per evitare i problemi legati a una coalizione che non tiene più e che obiettivamente mi sembra esaurita, si rilancia niente meno che la frattura del paese, la spaccatura del paese, questo da parte di un ministro in carica. Sarebbe qualcosa di drammatico se non fosse però anche una cosa poco seria. Da questo punto di vista mi sembra che Bossi dimostra con queste dichiarazioni la sua personale profonda crisi. Ecco Stefano, la domanda è se riesce a portarsi dietro in tutto questo i militanti leghisti. La nostra Silvia Menetto ieri era a Venezia e ha sentito alcuni di loro. Ascoltiamoli insieme e poi li commentiamo. L'età è a favore di Maroni, questo lo si sa, l'età è a favore di Maroni. Certo, se vogliamo dare una svolta decisiva, l'uomo nuovo è Maroni, però Bossi è sempre la mente della Lega. L'alleato di governo vostro resta il PDL cambiando Berlusconi o che cosa? Berlusconi è il Presidente del Consiglio. Per quanto vi riguarda invece Bossi o il cambio è Maroni? E per quanto ci riguarda Bossi è il segretario. Stefano Folli, cosa è cambiato da Pontida? Cambiato che la Lega, secondo me Bossi, si rende conto che la situazione si sta lacerando, che è una situazione sempre più difficile da gestire. Rilanciare la secessione, già l'aveva fatto l'altro giorno lì alle pendici del Monviso, ma l'ha ripetuto ieri in maniera più forte. Rilanciare la secessione è chiaro che non significa fare politica, no? Significa fuggire dalla politica. Ed esattamente quello che sta facendo. Fare politica significa affrontare i problemi di una coalizione che è giunta appunto a capolinea e affrontare questioni molto delicate che hanno a che vedere con l'esaurimento anche della leadership di Berlusconi nel centrodestra e anche problemi di governo notevoli che ci sono in questo momento. Rilanciare la secessione è un modo appunto per rifugiarsi nel mito. Ma che cosa prende in questo modo Bossi? Prende i militanti, prende i suoi. Ecco Stefano, però un appuntamento c'è, perché bisogna votare in aula sulla vicenda milanese. L'Italia dei Valori ieri ha detto che oggi chiederà il voto segreto, e lì però la Lega dovrà prendere una posizione. La Lega su milanese... Non intendo con i suoi militanti, ma in Parlamento. Certo. No, anch'io ho scritto l'altro giorno che questo è il passaggio più delicato. Essendo un passaggio a voto segreto, attiene naturalmente alla coscienza di ciascuno. Siccome la Lega è un partito con all'interno delle fratture, queste linee fratture naturalmente riportano ufficiosamente al nome dei seguaci di Maroni. Io non mi sorprenderei affatto se nel voto segreto, quali che siano le le disposizioni del partito, però mi sembra che su questo per esempio si è detto, i leghisti hanno detto che loro sono per il no all'arresto di Milanese, però lasciano una area di libertà di coscienza. E quindi vedremo quale sarà il voto segreto, è possibile quale che sarà la libertà di coscienza. Certo. Grazie anche a Stefano Folli. Grazie. E buona mattinata. Il Messaggero, dalla Lega passiamo ad un'altra pancia, quella di Napoli. Nelle feste scherza con i santi, ma non spostare i santi. Buongiorno al direttore di Teleluna, Franco Genzale. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, che succede a Napoli? Oggi è il 19 settembre, è San Gennaro, ma potrebbe essere l'ultimo San Gennaro del 19 settembre, effetto della manovra appena passata alle Camere, ormai legge, che accorpa la domenica le festività, e quindi addio San Gennaro, Genzale? Ma addio San Gennaro è molto semplice dirlo, ma difficilmente sarà realizzato, anche perché, lo ha detto il Cardinale Sepe, c'è un problema. Il 19 settembre non si cancella, tutte le leggi possono in qualche modo non modificare comunque il calendario. Sepe ha detto, ma i napoletani dicono, il 19 settembre resta la data di San Gennaro. Noi abbiamo la viabilità, qualche notizia per chi viaggia, resti con noi perché tra poco parliamo di questo. Prima edizione. Allora, Genzale, il 19 settembre resta San Gennaro. Resta San Gennaro, questa mattina è previsto, come sappiamo tutti, il miracolo. Dalle 9 in poi nel Duomo di Napoli ci sarà la funzione, la tradizionale, una funzione che viene da molto lontano, ci sarà il miracolo. Nel frattempo abbiamo fatto una petizione, ho raccolto 21.300 firme in una settimana, una petizione consegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si chiede il ripristino dall'anno prossimo della data, cioè la cancellazione dell'accorpamento. Questo naturalmente vale non soltanto per San Gennaro, ma per Sant'Ambrogio a Milano, per altri santi e per tutte le festività, anche per San Gennaro, che è la prima che cade. Vedremo anche che succederà col miracolo di San Gennaro stamattina. Beh, intanto San Gennaro già un mezzo miracolo l'ha fatto ieri sera, secondo i napoletani, che sono superstiziosi, battendo il Napoli in Milano 3-1. È il calcio. Certamente, ma è sempre il 19 settembre. C'è un problema che va detto. San Gennaro, al di là del fatto religioso, comunque rappresenta un valore identitario della comunità partenopea, così come può essere Sant'Ambrogio per Milano. D'altra parte, prendersela con i santi, insomma, è un po' troppo. Va bene. Franco Genzale, Teleluna. Grazie, grazie a lei, da Napoli. Le 6:49 minuti, mi ha raggiunto nel frattempo in studio Alessandro Milan. Ciao. Eccoci. Alessandro, questa storia del miracolo contro il Milan io non l'ho capita molto, però insomma, vabbè. Questione di gusti calcistici. Allora, e tu oggi invece che ci racconti? Allora, vabbè, i giornali sono pieni ovviamente di notizie sulla politica e sulla ancora le intercettazioni, però volevo regalare due anticipazioni un po' curiose. La prima è che da oggi più o meno pagheremo anche la pensione a Cicciolina, 3.000 euro al mese, ricorderete. Ci mancavano forse, nei nostri conti. Forse sapete, sai chi è Cicciolina, sì, sì, è abbastanza famosa. È stata parlamentare, quindi come tutti da oggi a 60 anni. E infine, nella piena emergenza rifiuti nel 2008, si scopre, oggi il Corriere della Sera vi dedica una pagina, che alcuni dirigenti di una società, Napoli Servizi, si sono aumentati lo stipendio per premio produttività. Beh, non ci ha pensato San Gennaro, infatti, Alessandro. Almeno loro. E questo grazie allora ad Alessandro Milan. Lo ritroveremo naturalmente dopo GR24 delle 7. Ti lascio in buone mani con Alessandro Longoni in regia e Peter Bescapè. Noi invece ci risentiamo tra pochissimo con le notizie di GR24. Buona giornata da Anna Migliorati.